La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Eccoci alla conclusione di una storia che ho letto nel tempo, Donna di piacere, un mio romanzo pubblicato da Mondadori, che si svolge in un bordello di campagna tra le colline alla fine dell'Ottocento in Umbria, ed è la storia di questa grande festa di martedì grasso che le ragazze hanno preparato aspettando gli uomini. Ma gli uomini non sono ancora venuti, ma intanto accadono molte cose al bordello, per esempio il duello tra Ranusia e la sua amante Jolly. E soprattutto abbiamo saputo la storia di Chiara, prima ragazza di piacere nel bordello di Madame Goulon e poi si è innamorata di un ragazzino che invece ama i maschi, prigioniero in casa di suo padre, avendo un amante a Venezia che lo aspetta. Chiara lo aiuterà a scappare e gli dà all'ultimo momento, quando va via, un astuccio d'argento col suo ritratto. La mattina dopo si viene a sapere che il feroce bandito Ciancalana, che infesta i boschi, ha ucciso un viaggiatore e lei è sicura che questo viaggiatore sia Emilio. E la prova è questo astuccio d'argento che il contadino che porta la notizia ha con sé. Lei glielo strappa dalle mani e, senza guardare dentro, lo seppellisce dietro il pollaio perché nessuno possa vederlo. Si sta avvicinando la mezzanotte. È l'ultima ora in cui si può aspettare ancora qualcuno, perché se entro mezzanotte non verrà un maschio, le ragazze saranno veramente disperate. Ah, e poi la vecchia, la cantilena, questa che dormiva su questo materasso pieno di soldi, viene giù grottescamente travestita da ragazza e si mette a ballare con le altre. È quasi mezzanotte. Il martedì grasso volge alla fine. Ancora impazza la quadriglia di Cantilena, che la dirige sdraiata sul divano, muovendo ormai solo due dita, debolmente. Le ragazze, chi fa i tarocchi, chi si è ubriacata di minzanto. La Nichilina s'abbuffa di dolci e la Goulon dice: «Basta, cocca, c'hai già una trippa». Vuole levarle il bignè, ma quella afferra tutto il vassoio e Battagliera dice: «Mi vengano pure due trippe, tanto io sugli uomini ci sputo. E poi, scusi, dove sono gli uomini? Non ha capito che non ci sono più?». La Goulon allora le ficca tre bignè in bocca perché stia zitta. «E che sarà mai, perché non sono venuti a una festa? Ci si diverte tanto tra donne». A farsi le confidenze cercandosi pidocchi finché la bella pettinatura si disfa e scioglie, ma tra loro ruggisce l'attesa del maschio. Per un maschio darebbero via tutti quei trastulli, purché il maschio non le disprezzi come ha fatto stanotte. La prossima volta che vengono bisognerebbe far finta di niente, chi offese noi, ma figuriamoci. E poi, appena soli, zac, glielo stacchiamo col falcetto a tutti e sette quei rinnegati che hanno temuto la neve. La Goulon si era messa a sonnecchiare, ma ad un tratto saltò su e, agitando le braccia, si mise a gridare: «La valanga, la valanga!». E pulendosi la bava disse festosa: «Ho fatto un sogno, la valanga li ha trattenuti». Noi la guardiamo, stranite. Sappiamo che non c'è stata nessuna valanga, che quella è neve leggera e impedisce la strada solo ai vigliacchi o a chi ha cambiato bordello. Ma lei testarda pretende che sono tutti morti, così imparano che i pezzi di «Nella ricerca dell'ingiuria» si intenerì. E accarezzando i suoi buoni soldi, i soli che l'abbiano amata, che le scaldino ora la mano nel grembiule di vecchia economa, la Goulon disse, con una vocina di scolara che confessi al fine la verità: «La colpa è delle mode di Parigi e delle donne per bene che la danno via a niente». E dice: «Vedo tempi cupi per le mie anatrelle». Piange. Ahi, la festa volge al peggio. Il fallo di pan di Spagna s'era aggrinzito sulla torta come quello d'un morto. Ma intatta la torta, e i coriandoli non si sono lanciati. Nella mesta festa sfrenata, le ragazze non toccarono i veri festeggiamenti. Fino all'ultimo li hanno serbati, fino al bordo della mezzanotte, come se prima che suoni un convitato dovesse venire, uno solo, che meglio di tutti sarebbe accolto, e per lui avrebbe finalmente un senso la mascherata, che invece, così come siamo, le maschere hanno preso le nostre tristi espressioni e buttiamo nel fuoco. Un invitato, uno solo, ma l'orologio, 00:01. Le ragazze si tapparono le orecchie per non sentire i 12 colpi. Fra un minuto carnevale finito e nulla sarà accaduto. Dovremo entrare nella quaresima senza un peccato. Penitenza di carnevale, che male. Ed ecco come nelle fiabe, che su, ci piacerebbe a tutti nei momenti brutti, qualcuno che ce le racconta all'orecchio, con la dolcissima bocca pelosa mutando il reale. Un istante prima che scoccasse la mezzanotte, si udì un armeggiare pesante dietro la porta. Ci guardammo l'una con l'altra, pregandoci mute di stare ferme, di non cedere a quest'ultima illusione. Eppure qualcuno bussa davvero, colpi maldestri e attutiti, come battuti da una mano guantata. Non osiamo più pensare la parola, ma attraverso la finestra appannata del pian terreno, nel buio traspare con chiarezza l'immagine di un uomo. Jolly, che aspettava il suo amante, Ovidio, il orefice che la rapisse nella notte di martedì grasso, e aveva già l'abito di nozze nascosto, bianco, bellissimo, sotto il letto. Invece lui non è venuto, e quindi era più disperata, perché le altre sono state tradite dai maschi, ma lei da uno solo, e quindi fa più male. Jolly, che si era spalmata i capezzoli di crema e li faceva leccare a tutti, ebbe uno sguardo folle e, fissando la porta, disse solenne: «Tocca a me». Andò lentamente ad aprire, muovendo i fianchi come se molti signori la stessero guardando, tutti e molti in frac, e tutti disposti a portarla all'altare. Lo avrebbe fatto drizzare i morti. Tanto che perfino la cantilena, a vederla camminare così, si grattò i 5 peli. Ne aveva perso uno nella quadriglia e uno nella torta. Oh, tra l'altro, cantilena, appunto, che è rimasta con questi pochi peli e sono come la sua clessidra, sa che quando tutti cadranno lei morrà. Jolly spalancò la porta. Contro la nera notte, incoronato dalla mezzanotte che finalmente scoccava, apparve un orso, eretto sulle zampe, più grande di un uomo. Solo un orso poteva venire al bordello in una notte come questa. Le ragazze, con gridolini, gli si affollarono intorno, lo fecero entrare. Un orso maschio, incrostato di neve, con l'occhio velato, che cerca il caldo e un rifugio. Un orso ammaestrato, scappato a qualche ambulante, la museruola gelata sul muso. È sfinito, eppure sa dare la mano, sa fare l'inchino. Il miracolo è accaduto. L'invitato è arrivato. Ora la festa vera, la festa col maschio. La guardiana del faro. Leggendo Donna di piacere, siamo alla conclusione di questo romanzo che si svolge in un bordello umbro la sera di martedì grasso. Le ragazze si illudono ancora, stanno attente a tutti i rumori fino a mezzanotte, ma quando scocca la mezzanotte è chiaro che la festa è fallita e nessun ospite è venuto. E proprio mentre scocca la mezzanotte si sente bussare alla porta. Aprono e fuori c'è non proprio un uomo, ma un orso. E allora si scatena l'allegria. Finalmente la festa col maschio. L'orso maschio, l'orso ammaestrato che ha bussato alla loro porta nella tormenta, diventerà il centro di ogni festeggiamento e il riscatto dell'assenza degli uomini. Per le ragazze esasperate, l'orso divenne il centro del carnevale e gli buttarono i coriandoli e sul muso gli strizzarono la crema della torta. Lui, stupito, leccava. Il fuoco cominciava a sciogliere la neve del suo grosso pelo, a rinfrancarlo. Lui sa stare su due zampe come un vero signorino. Non è certo un animale selvatico. Tutte vogliono ballare con l'orso. Lui fa un mezzo giro, magari Elvira esagera, che con un cucchiaino tra i denti gli versa l'anisetta. L'orso barcolla, gli gira la testa. ma non c'è alcun rischio. La museruola imprigiona i forti denti e si può esagerare finché si vuole. Sarà un grande carnevale. Le ragazze fanno a gara nel piacere all'orso di questo maschio che tutti li rappresenta nel diventare le favorite. E gli fanno come farebbero un uomo, occhiolini e moine. Ma Jolly sa che l'orso sarà suo. Jolly sa che la grossa preda l'aspetta. A tutti i costi vuole essere la prima. Solo lei gli sa passare la mano sotto il mento, che l'orso arriccia il muso e si cheta, e ci starebbe per morto, mentre le sue unghie laccate gli fanno sentire un terribile solletico. Per non morire di dolore, Jolly ha un solo modo: fare morire Rannusia. Jolly si vuole vendicare in qualsiasi maniera del dolore che le ha dato il suo amante, non venendola a rapire come aveva promesso, e le secca anche enormemente che questo sia avvenuto davanti a Rannusia, la sua ex amante, che l'ha presa in giro, si è travestita e le ha fatto credere che fosse Ovidio. Per non morire di dolore, Jolly ha un solo modo: farne morire la sua amante, Rannusia. Qualsiasi cosa farebbe per umiliarla, e perfino con l'orso vuol farla ingelosire, così lo paga il suo scherzo. «E dai», dissero le altre, «lascialo un poco anche a noi». Le strapparono l'orso e lo trascinarono nella quadriglia. E lui, bisogna vedere come se la cavava. Jolly andò via indispettita, seguita dagli occhi di Rannusia. Allora le ragazze spinsero avanti l'anichilina e lei, spinta dalle risate, per dimostrarsi all'altezza, cercava di farselo amico, ma era goffa e l'orso si infastidì, al punto che dopo il giro di ballo, frastornato, si buttò sul tappeto e non ne voleva più sapere. Le ragazze, chi lo tirava per zampe, chi per i peli. La Gullon disse, piano, le bestie sono bestie, ma chi l'ascoltava più? In quella stava facendo il suo ingresso Jolly, con l'abito da sposa un po' strappato, indossato la brava, la coroncina di traverso, e così si presentò all'orso. Le altre andarono in visibilio. Tra i lazzi celebrarono le nozze. Chi è testimone, chi damigella. L'anichilina officiava il latino contadino e la Gullon al pianoforte suonò la marcia nuziale. La musica ci straziava il cuore. Ma l'orso era grande. Dava la mano alla sposa, faceva la riverenza. Che Cantilena dal ridere perse altri due peli. Attenta, Cantilena, ne restano solo tre, ma le sghignazza e non si frena. Vuole godere fino in fondo la sua festa. La sposa trascinò l'orso per le zampe. Ben tre volte fecero il giro del tavolo. Mai vi fu festa così animata al casino. L'orso è un po' stanco. Con un dolce ruggito avverte Jolly. Rannusia e la Gullon, per una volta d'accordo, dicono «Adesso basta, il bel gioco dura poco». Ma il sentore del pericolo fa fremere le ragazze. Vogliono che Jolly spinga il gioco fino all'eccesso. Jolly è di nuovo la diva, al centro del salotto con le altre intorno. E più di mille Ovidi, cioè l'amante che l'ha lasciata, far ballare il bestione. Per stupirle, perché travolgente fosse l'applauso finale, Jolly gli tolse la museruola. Tutte si scostarono con un urlo. La Gullon brandì il bastone e disse a Rannusia, «Ferma l'idiota, quella vuol farsi ammazzare!» Ma Rannusia fece un sorriso triste, che Jolly non la ferma nemmeno domine Dio. Non la vedi, come in bocca la bestia con ghiotti babà che lo fanno inebriare. E lui non è più tanto amabile. Ora che non ha più la museruola, Jolly si diverte a stuzzicarlo. Lo carezza, finché come una sposa gli porse la bocca per baciarlo. Le altre trattengono il respiro. Lui fiutando si accosta. Ma l'ultimo Jolly, come se avesse avuto davanti davvero Ovidio, con un violento colpo sul naso, lo respinse. Fu lì che l'orso perse la pazienza. La bonomia della bestia ammaestrata lo lasciò e sul muso, chiamata dalla follia di Jolly, tornò la sua antica natura e uno spaventevole mostro selvaggio digrignò i denti e si gettò su di lei, straziandola. A bastonate, a colpi di sedia, abbattemmo la bestia. La buttammo sulla neve, con la testa spaccata, e corremmo da Jolly. Quattro profonde ferite le attraversavano il seno. Finalmente, un bel sangue sull'abito di nozze. La Gullon ripuliva le ferite e diceva, giusto uno sgraffio, per la fine della quaresima questa trotta meglio di prima, ce n'è che va pazzi per le cicatrici d'orso. Guarda, qui si vedono addirittura i denti. Pagheranno il doppio. Fortunata Jolly, sei tornata alla sua prediletta. Improvviso, il silenzio. Invece degli uomini, venne finalmente l'alba. Scoprì le candele incenerite, i cocci dei sogni. Ma quando la luce raggiunse il divano, rivelò che qualcosa era finalmente successo. Qualcosa aveva concluso il martedì grasso. Cantilena è morta, senza più peli. Caddero tutti nella festa, li dissipò per godere. Ora, davvero, l'attesa è finita. Le ragazze liberarono nei singhiozzi l'emozione della lunga notte e con la scusa di Cantilena si abbandonarono al pianto. Un pianto glorioso accompagnò la morte di Cantilena, che ebbe la fortuna di morire dopo una grande delusione. I lamenti di una regina si ebbe, per merito di 7 maschi che perdettero la via, e le sue orecchie stecchite si beano di quel dolore, come se davvero fosse per lei. La Goulon, che da un tempo immemorabile aspetta che lei muoia per rubarle il tesoro che aveva nel materasso, ma non sa che l'ha già preso Chiara la notte della fuga di Emilio per darglielo, per favorire la sua fuga. La Goulon le mise uno specchietto davanti alla bocca, che non si sa mai, rimase terzo. Allora guardò in alto, verso la soffitta, e corse verso l'eredità che finalmente le apparteneva. Alla tremarella, mentre sale le scale, sprangò la porta per rimanere sola col suo piacere. Aveva pazientato tanto. Ora non c'era più nessuno tra lei e l'oro di Cantilena. Trasse dal bastone l'anima acuminata e, partendo all'assalto come contro i briganti, si avventò a sventrare il materasso. Una nuvola di piume invase la stanza e il bordello. E lei, tentoni, cercava il suo denaro, invano, che non c'è più. Lo prese tutto Emilio per morire. Inutilmente la donna tenta ad acchiappare le piume capricciose che il vento scompiglia e per le scale le insegue come altri insegue le folle d'amore. Simile a una fanciulla danza la vecchia, inseguendo il denaro, il piccolo dio riccio che la fa tanto sospirare. Più cattivo di Cupido, che pure malvagio. Ahi, denaro. Nel mattino s'era alzato il vento e tutte le piume, spargendosi dalle porte e dalle finestre, volavano per la campagna. A cavallo di una piuma, Cantilena attraversa il cielo, come gotano le sue gambe magre, libere nell'aria, finché il sole si levò in un finimondo di fuoco e la sua bella faccia gridò nei cieli: Emilio è vivo. Caddi con le mani sugli occhi, poi barcollando corsi fino al pollaio. Di tra la paglia trassi la scatola d'argento, la sola prova della sua morte. Da quando l'avevo strappata al contadino, non ero più tornata a guardarla, tanto ero sicura che fosse stato lui la vittima di quella notte. Apre questa scatola pensando che sia il ritratto che lei ha dato Emilio e invece dentro non c'era il mio ritratto, ma un mazzo di carte che il vento arraffò facendolo mulinare, le carte del baro, le carte truccate. Rimasi ferma, come i sassi del viale. Il contadino diceva il vero. Non fu Emilio che il bandito uccise. E forse, proprio mentre la banda massacrava lo sfortunato giocatore, Emilio vinse la sua mano e riuscì a passare il bosco, salvo. Avevo inventato io la sua morte. Chiara ha compiuto un'esecuzione immaginaria. Non sopportava che altri fosse l'amore di Emilio. Fu bella, Chiara, la commedia della rinuncia. E intanto covavi la brama atroce. Possederlo attraverso la morte. Sentì Emilio ridere da qualche parte, credo assai lontano. Come una luna si leva l'anima mia. Egli vive e mai sarà mio. Viene il grande momento, la povertà assoluta. Solo ora, spogliandomi d'ogni diritto d'amore, l'amore mi investe, fiume di grazia che infine trascina. Allora mi accorsi che mi stavo lentamente alzando da terra. Sotto i piedi nudi le margherite fanno un fresco prurito. Ancora poco, mi sono appena sollevata sulle corolle, ma un giorno volerò, librandomi sulla collina. Il vento mi spinse sopra lo stagno e specchiandomi vidi sul mio volto qualcosa di simile all'estasi di Santa Mara. Oh, non uguale, simile al celeste piacere. Thank you. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, l'ho conosciuto tramite sua zia. Lavoravo nel suo negozio e lei per me era come una nonna. Mi parlava di suo nipote e mi sono innamorata di lui senza conoscerlo. Quando ci siamo incontrati anche lui si è innamorato e ci siamo messi insieme. Il problema era la madre, vedova. Per lei ero una nemica da eliminare. Un anno fa rimasi incinta. Volevo questo figlio. Speravo che avremmo avuto una nostra famiglia. Invece lui non se la sentiva di diventare padre. In casa mia fu una tragedia. Decisi di abortire. Lui non è nemmeno venuto a trovarmi. Mi ha telefonato e non mi ha chiesto come stavo. Abbiamo continuato a stare insieme, ma era egoista fino alla nausea e parlava con le parole di sua madre. 3 mesi fa l'ho lasciato. Piangevamo come bambini. Mi resi conto che mi mancava. Ci vedevamo ogni tanto. Ma lui veniva con me solo per il sesso. Aveva un'altra. Veniva con me e aveva già lei. Era la mia prima storia e ne sono ancora profondamente innamorata. Magari del ragazzo che mi descriveva sua zia. Mickey 74. Brava, l'hai detto. Nell'ultima frase c'è la chiave dell'equivoco. Perché tutta la storia che mi racconti si svolge fra te e la nonna, cioè la zia del ragazzo. Questa maga che ti fa innamorare di un nipote immaginario. Questo ragazzo è una figura da fiaba, a cui l'anziana buona signora, ma dannosa, ha prestato tutte le virtù. È una scena triste e graziosa. Una ragazza e una vecchia, sole, in negozio, costruiscono un uomo. Si vogliono tanto bene che vorrebbero diventare parenti. E il loro desiderio si incarna in questo cavaliere perfetto, in questo dolce innamorato pieno di slancio. E sono talmente infatuate della loro invenzione, tutte e due, che non vogliono vedere che questo ragazzo non vale niente, che è un bruto, un egoista. E poi, però, d'un tratto, dopo che i due ragazzi sono entrati in contatto, questa Disneyland fittizia diventa un film dell'orrore. Lui ti mette incinta e scappa. Ti lascia sola e spinge la sua bassezza fino a far finta di niente. La colpa non è di sua madre che tu incolpi, la colpa è sua. Lei sarà un mostro, la madre, ma lui è peggio. Se un uomo è un uomo, ovvero capace di responsabilità, non c'è madre che tenga. La sua vigliaccheria l'hai pagata tu e i tuoi genitori, che lo avevano accolto con affetto. E adesso, dopo tante sofferenze, tu insisti a pensarlo. Ma ti prego, butta via questo santino ignobile e sbiadito. È un uomo da niente, uno che si nasconde dietro la madre. Almeno avesse il coraggio di essere vigliacco in proprio. Oh, e una domanda. E la zia, in tutto questo? A un certo punto esce dal tuo racconto, come certi incantatori che una volta combinata la magia nera si dissolvono in maniera non del tutto innocente. Vorrei tanto scrivere un libro. Quest'anno sono stato scaricato da una donna di potere, magistrato, che ha usato tutti i poteri possibili. Abbiamo 3 figlie. Da quando non capivo quello che mi stava cadendo addosso, ho cominciato a prendere disordinatamente appunti per cercare una ragione. Ma la ragione non c'era, poiché lei mi ha scaricato. Nella sfortuna, dopo anni che mi diceva e aveva tanti uomini, e io avevo solo lei, adesso io mi ritrovo con un'altra, e lei è sola. Lei mi ha controllato telefonicamente con investigatori e per mesi mi ha impedito di vedere le figlie che mi amano e che io ho cresciuto. A Cuneo sono molto conosciuto come il papà che porta in giro i figli di corsa nel passeggino. Lei, tramite il giudice collega, mi ha richiesto una perizia psicologica, dove però è emerso da un gruppo di psicologi che i problemi nella coppia erano suoi. Ora però io mi ritrovo a pagare. E lei gioca in giro a fare la vittima e dice che ancora mi ama, ma poi continua di fatto a violentarmi e non dorme la notte per pensare a come umiliarmi. Di questa storia intrigante mi manca ancora la fine. È un sogno che ho. Ho una storia. E vorrei proprio scriverlo, questo libro. Buonanotte. Vorrei un consiglio. Suo adorato Giovanni, l'ascoltatore. Ma senti Giovanni, intanto sei il primo che firma suo adorato Giovanni. E lo trovo molto grazioso, cioè il fatto che tu ti adori è già molto bello. Ma l'unico modo per salvarsi da un'ossessione è caderci dentro in pieno, cercando l'uscita, ma anche rimanendoci dentro, sai. E quindi una sola cosa ti posso dire. Vuoi scrivere un libro? Scrivi. Cara Barbara, prima il mio ragazzo mi ha fatto comprare e indossare biancheria erotica e specialmente un reggicalze rosa, molto eccitante. Poi è diventato sempre più geloso. Adesso controlla che io abbia su sempre delle cose molto sobrie. Io però sono scocciatissima perché mi piaceva molto vestirmi così, anche se gli altri non lo sapevano. Ultimamente gli ho disobbedito per fargli vedere che non mi può comandare prima una cosa e poi un'altra. Lui mi fa il muso. Dice che l'occasione fa l'uomo ladro e che quelle cose le devo mettere solo quando mi vede lui. Perché dice che una volta che una donna si è vestita così, dopo le viene la tentazione di farlo sapere a tutti. Marzia. E beh, come nella canzone di Paolo Conte, che canta la giarrettiera rosa, chi l'ha vista con la mente più non riposa. Mi sembra un dilemma così ridicolo da meritare una risposta. Ma dipende dalla vostra intimità erotica. Se è fondata sulla complicità oppure sul dispetto. Se lui vuole veramente che tu vesta sobria quando non vi vedete voi due, o se invece sottilmente ti sta istigando a indossare la biancheria eccitante per poi arrabbiarsi, cosa che lo eccita. E altrettanto vale per te. Che vita curiosa. Una ragazza si affaccia alla finestra e mi chiede, con la massima serietà, devo mettere le mutande di lana, di cotone o di raso? L'onesto collant o la giarrettiera assassina? Taccio, perplessa. Come ci dicevano da piccoli, davanti alle domande sui massimi sistemi, ti devo rispondere, non lo so. Sono cose più grandi di me. La giarrettiera rosa, e chi l'ha visto ormai con la mente più non riposa, pensa alla dolce cosa. La giarrettiera rosa, chi l'ha vista non la scorda più. La giarrettiera rosa, chi l'ha vista non la scorda più. C'è scritto Riccardo, che è medico. Grazie Riccardo, perché ha scritto una lettera contro la medicalizzazione delle passioni, che è una delle cose più tremende di oggi. Oggi troppo spesso, scrive Riccardo, si ricorre all'interpretazione psicologica o alla ricerca di un meccanismo mentale necessariamente patologico, di vicende che poeti e scrittori hanno già reinterpretato e riproposto da secoli, anzi da millenni. Sono medico. Ho spesso a che fare con persone con disagi psichici e sempre più mi accorgo di questa tendenza a trasformare in malattia, una volta depressione, una volta ansia, normali reazioni alle vicende della vita. Io non voglio sottovalutare la sofferenza che si prova di fronte alle disavventure amorose. In molti casi lo psicologo è necessario e non voglio avvilirne il ruolo, ma ho l'impressione che si voglia medicalizzare l'intera umanità. E come si volessero negare la sofferenza e l'esaltazione come parti integranti della nostra esperienza e confinarle in una dimensione fuori dal normale, malata. L'arte è colma di queste esperienze intense, già contiene ogni sfumatura negativa o positiva del nostro essere e non solo spesso ci permette di fare una diagnosi, tra virgolette, di darci una spiegazione, ma addirittura, illuminando i meccanismi dell'animo, ci può indicare una soluzione o comunque ci rasserena. Così una poesia, una musica, un ritratto o un romanzo. Forse dovremmo far capire anche ai più giovani quanto perdiamo a trascurare la lettura e l'arte, anche per il distillato dell'umano che tutto contiene. Grazie Riccardo. Batte, batte forte il cuore sul territorio dell'amore. Questa è una poesia di Emily Dickinson, questa zitella prodigiosa, divina, madre di tutte le avanguardie poetiche a venire. Ve la leggo nella traduzione di Carlo Izzo. Il titolo è il primo verso. Non posso vivere con te. I cannot live with you. Non posso vivere con te. Sarebbe vita. E la vita è lassù, dietro lo scaffale di cui il sagrestano ha la chiave per riporre la nostra vita, sua porcellana. Come una tazza scartata dalla massaia. Antiquata o rotta. Un nuovo pezzo di Sèvres piace. I vecchi si fendono. Non potrai morire con te, perché uno deve attendere per chiudere lo sguardo dell'altro. E tu non potresti? E io potrei io stare lì e vederti raggelare, senza vantare il mio diritto al gelo, il privilegio della morte. Né potrei io salire con te, perché il tuo volto spegnerebbe quello di Gesù. Quella grazia nuova parrebbe disadorna e straniera al mio occhio ferito di nostalgia. Se tu, più di lui, non mi splendessi vicino, ci giudicherebbero come? Poiché tu servisti il cielo, vedi, o cercasti di farlo. Io non potei, poiché tu saturavi la mia vista e io non avevo più occhi per una misera eccellenza quale il paradiso. E fossi tu perduto, anch'io lo sarei, sebbene il mio nome risuonasse più alto d'ogni altro nella fama celeste. E fossi tu salvo e io condannata a vivere in altro luogo dal tuo, quel solo fatto sarebbe l'inferno per me. Quindi dobbiamo rimanere separati, tu là, io qua, con solo socchiusa la porta che sono gli oceani. Ecco, e qui, anche se il mio inglese era raccapricciante, devo per forza di giustizia dire com'è il verso. Tu là, io qui, con solo socchiusa la porta che sono gli oceani, perché è talmente intraducibile, talmente appartiene alla lingua nella quale è stato scritto. So, we must keep apart. You there, I here, with just the door ajar that oceans are. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, lei mi disse subito: guarda, con me è come andare sulle montagne russe. Se credeva di spaventarmi, stava fresca. Io sono un cultore degli sport estremi, sono anche stato campione di deltaplano. Ho tenuto botta ai suoi cambiamenti di umore, alla liquidazione di un suo passato complicato, alla riapparizione sistematica di un ex che si piazzava sotto le nostre finestre. Dopo 2 anni avevo voglia di pace, di poter fare serenamente il mio lavoro, senza dover correre perché lei mi vuole lasciare e io la convinco sempre a tornare. Ed ecco, come se lei sentisse e accogliesse questo mio desiderio, tutto diventa più tranquillo e finalmente possiamo goderci il nostro amore. Poi, un giorno, per caso, un'altra persona è piombata nella mia vita. Per un banale incidente, parlo proprio di incidente stradale. Mi ha tamponato con la macchina e da allora è lei che amo. E darei la testa nel muro. Ma come? 2 anni di fatica per addomesticare la mia donna ideale, poi sono ossessionato dal pensiero dell'altra e non mi rassegno. Tutto questo non ha niente di ragionevole. Angelo. Angelo, Angelo, ma quando mai l'amore ha avuto qualcosa di ragionevole? E quello è il bello. E l'amore fa proprio come gli pare a lui. Sai, è come quando nasci, nessuno ti consulta. Non è che l'amore ti consulta e dice: senti, ti andrebbe bene il tale. Ecco, non è un sensale di matrimoni. Quanto alla tua storia, rozzamente si potrebbe pensare che nella tua donna ti piacevano enormemente le montagne russe. E anche se dopo 2 anni su e giù cominciavi un po' a essere stufo del movimento, appena lei si è acquetata non l'hai riconosciuta più. Hai fatto qualsiasi cosa per arrivare a una accettabile normalità e poi ti sei innamorato subito di un'altra. Io poi però, sai, ho detto rosamente perché in verità io credo molto nel caso, credo molto nell'inclassificabile caso. Ho visto a teatro una rappresentazione bellissima ed è Il catalogo di Jean-Claude Carrière, grande sceneggiatore, grande commediografo, con Isabella Ferrari ed Ennio Fantastichini. Una commedia con 2 soli personaggi. Lui è un Don Giovanni compulsivo che si sta preparando per uscire, per conoscere e sbrigare la 1000ª donna della sua vita, uno che cambia donna ogni sera con la meccanicità di chi timbra il cartellino a una solitudine inconsolabile. Oh, questo attore tra l'altro sa dare benissimo al personaggio quei tratti nevrotici della ripetizione e della noia non dichiarata. Ed ecco che nel suo appartamento da egoista senza fantasia, organizzato per lo scortico serale, un giorno entra una sconosciuta. Entra come un'ape, dalla porta aperta, lasciata aperta per caso. E così fa amore, non chiede il permesso. E così entra amore nella persona di Isabella Ferrari, bella come il peccato. Lui lì per lì non si accorge nemmeno che è una donna. La vede unicamente come disturbo alla sua routine. E effettivamente è una rompiscatola insopportabile. Lui non fa in tempo a girarsi che lei ha già disfatto la valigia e ha sistemato tutti i suoi vestiti nell'armadio e ha arrotolato quelli di lui e l'ha messo in un angolo. Quindi una bella invasione. E infatti amore non è certo discreto. Oh, mentre la ragazza, che si chiama Suzanne, promette che se ne andrà al più presto, fra un'ora, basta che si appoggia un attimo, intanto piega con cura il suo pigiama e lo mette sotto il cuscino. La ragazza sovverte l'appartamento e la vita di questo povero seduttore. E con lei entra il turbine, entra il vortice, entrano delle emozioni penosamente discordanti che lottano fra loro e poi finiscono sempre per vincere il fascino e la meraviglia. La vera emozione dello spettacolo è che Isabella Ferrari riesce a compiere una seduzione indiretta. Lì per lì la vorresti solo sbattere fuori. E mentre seduce il Don Giovanni, intanto seduce il pubblico, dicendo tutto quello che di solito si tace. Tutto quello che noi, uomini, donne, trans, qualsiasi cosa vorremmo dire, e non diciamo mai, le verità più infantili, più sconvenienti, e questa sua impudenza diventa grazia. E lei diventa un'espressione dell'amore. E la ragione trasmuta in una ragione superiore, che è l'incontrollabile. Oh, quando dico che Suzanne Isabella Ferrari dice la verità, in questa verità sono comprese anche le bugie fiabesche che lei si inventa per ingelosirlo e per fargli mancare il terreno sotto i piedi. E appena lui, il Don Giovanni, si accorge che non può più fare a meno di questa ragazza piombata dal cielo, la vuole rinchiudere. La prima cosa dell'amore è la prigione. La vuole sposare per chiudere la porta e non farla uscire più. E alla fine sarà lui a uscire da casa sua, lasciandola nell'appartamento, perché tanto ormai, dovunque vada, sarà sempre abitato da quella presenza. Il fascino di questa pièce, così rappresentata, è che non è in nessun modo rassicurante. E d'altronde, niente rassicurante ciò che riguarda l'amore. Ora tu sei sospeso fra la nostalgia delle tue perdute montagne russe e la nostalgia di quelle sulle quali non sei salito ancora. E adesso in questo momento precipiti gridando, ma come negli incubi, l'urlo non viene fuori, la voce perduta. Sai, Angelo, non so se ti auguro di ritrovarla. Posso chiedere alla capitaneria di porto se mi mette in contatto con Isabella Ferrari? Qui capitaneria di porto, come richiesto l'attrice Isabella Ferrari è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ciao Isabella, buongiorno. Buongiorno, ciao Barbara. Isabella, stavo dicendo prima che tu compi durante questo spettacolo una seduzione indiretta, progressiva, perché all'inizio sei veramente allarmante quando ti piazzi a casa di questo signore e gli riempi l'armadio e poi poco a poco, ecco, ci racconti di questa esperienza. Diciamo che ho portato avanti il progetto da sola perché ho scelto il testo, cioè il testo veramente mi è cascato sulla testa mentre mettevo a posto la libreria un giorno. Poi l'ho proposto a Valerio Binasco, che è un regista che definisco un fabbro, come se avesse le chiavi di ogni essere umano. Comunque ha in qualche modo destrutturato un po' il testo di Carriera. Lui ha fatto dei quadri, è una gabbia divisa in quadri. Una gabbia metafisica e quella prigione, l'unica prigione dove vogliamo stare, che è sempre l'amore. Tu ti presenti in scena come un personaggio veramente inopportuno, l'incubo di tutti, che ti entra uno in casa e si vuole piazzare lì e non riesci più a levartelo dai piedi. E poco a poco diventi proprio l'amore. E di una sincerità oltraggiosa, perché quando sicuramente lei è presa da lui, perché nessuna donna inventa delle bugie teatrali per farlo ingelosire se non è interessata a quest'uomo. Però dici delle cose in cui tutte ha tremato il cuore a tantissime donne nel pubblico, quando, pur amandolo in qualche maniera, tu non lo vuoi tra i piedi. Questa, vuoi stare sola. In verità la casa ti interessa più dell'uomo. Non come possesso, proprio come luogo della solitudine. Perché quante volte noi donne vorremmo che si levassero dai piedi, ma non per disamore, semplicemente perché i maschi pesano. Una grande risata quando io mi dico, ma lei resterà qui tutto il giorno? Sì. E poi mi giro, facendo uno sbuffo, e lì c'è sempre uno scatenamento di risate, perché chiaramente tutti noi abbiamo provato, è una sensazione proprio chiara, netta, che ci abbiamo tutti dentro, insomma, non è che... E anche gli uomini verso di noi lo avranno sicuramente. E anche gli uomini verso di noi. E poi bello perché comunque non c'è tristezza, cioè c'è una disperazione, c'è questa paura di stare soli, però nello stesso tempo si vuole stare soli, cioè né con te né senza di te. Chi è Isabella Ferrari, donna? Chi è? Ma che ne so, non lo so, ditelo voi, perché io non lo so. Ogni tanto dico sempre, poi i miei figli un giorno mi racconteranno chi sono stata. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.